Çırıkına kuan esirey va yürürmi Ağrın ettiğe sinin morunu maypın siyer Leğmin tizi gommet doşa madina Sisar pausa stukar kine niyent Kine niyent, kine niyent, kine niyent Ennundar pijako viendo si pazzea che capille tuoi Perché so bella Vienda Roma Bonvena Roma Chiurama L'occhio così camoro puri Non voglio sentire Volesse sulla voce lo suono E cantare le stesse parole Mi resti scettata Se tu stai con me E non dare bianco vieni Si pazzea che capille tuoi O che so bella Vieni